Ho letto con molto interesse l'edificante articolo sull'aborto apparso su Il Cristiano di luglio e devo dire che subito mi ha ricordato ciò che ho visto nella scrittura riguardo a questo soggetto. Nel famoso elenco di peccati che caratterizzeranno gli ultimi tempi, e noi siamo negli ultimi tempi, di due Tim, tre cenne e uno che mi ha dato sempre da pensare. Gli uomini, dice l'Apostolo Paolo, saranno senza affezione naturale. Ora, secondo le caratteristiche delle profezie, molte cose profetizzate le comprendono pienamente solo coloro che vivono al momento dell'avverarsi di esse. Vedi Geremia 23, 20 e 30-24. Ed io nel chiedermi cosa volesse dire lo Spirito Santo, ho trovato la risposta nell'aborto. Pur rimanendo vero che l'affermazione dell'Apostolo Paolo può avere un'applicazione generica, ritengo che l'aborto ne sia la manifestazione principale. Avere dell'affezione naturale non vuol dire altro che avere un sentimento spontaneo innato d'amore. E l'amore non fa male ad alcuno verso cose che sono amabili. Ora non vi è nulla di più naturale per una donna che nutrire dell'affezione delicatezza, tenerezza, per una creatura che ha concepito e che si sta formando nel suo corpo. È umiliante per l'uomo, come razza, dover imparare dagli animali l'affezione naturale. Ricordo che mio figlio, all'età di 3 anni, giocava con una cagna e, caratteristica di quell'età giocare in modo pesante ed essere sgarbati, ma nonostante ciò notavo con sorpresa che la bestiola mostrava una grande pazienza. Un bel giorno però si è messa a ringhiare per indicare che non accettava più il gioco. Ho chiesto al padrone della bestiola che cosa avesse e mi ha risposto che era incinta. Da quel momento essa non ha più accettato giochi pesanti perché aveva delle creature da proteggere. Certamente non era una cagna moderna, femminista, ma una cosa aveva di buono. Non aveva spento con vani ragionamenti l'istinto dell'affezione naturale. Compiere un aborto quindi vuol dire sopprimere un istinto naturale che Dio ha posto in noi. Di questo passo dove arriveremo? Se le madri non vogliono le creature che stanno per nascere, arriveranno a non volere con molte ragioni quelle che sono già nate. Alcuni fatti la cronaca li ha già riportati. Ma anche nel dilagare del male Dio ha qualcosa da dire a noi, che siamo di coloro che hanno accettato la sua volontà per il nostro bene. Accettiamo pure con certezza e consolazione le seguenti parole. Una donna dimentica ella il bimbo che allatta cessando di avere pietà del frutto delle sue viscere? Quando anche le madri dimenticassero, cosa assurda ma possibile, io non dimenticherò te. Isaia 49,15. Bico è.